Așa am promisiune. Zile, nu e. Mă nu e. Ah. E ne da mi credit sign. Mi se e can dai le bon pain, su min già una bon pain. Sì. O friend. Mi dite le bibbia poco e case anche se mi. Ma smesce. Auto credit na my fro back. That's it.